carissimo, anche io sono cresciuto con quella musica. Il nostro programma è un programma che stiamo facendo un po' commerciale per accontentare un po' tutti, ma il prog sta arrivando. Non sta arrivando soltanto a Emerson Lake e Palmer di Genesis, ma anche ai nostri, la Premiata Forneria Marconi, il Banco del Mutuo Soccorso, il Balletto di Bronzo, gli Osanna e chi più ne ha più ne metta. Un periodo molto intenso della nostra vita musicale. Hai ragione, bravo. E io invece vorrei citare Maruska, che scrive che il 1973 è stato l'anno del suo folle innamoramento con un bel ragazzo che oggi è ancora suo marito e è molto contenta, e noi siamo molto contenti per lei. C'è anche, è colpito dalla tua leva militare, ci scrive anche Paolo, che dice che anche lui nel 73 faceva la leva militare a Bari, Verona e Padova. Ricordi indelebili anche a pochi giorni dalla pensione. Ultimo SMS, ne sono arrivati tantissimi, questo è molto carino. I Genesis erano nella Hit Parade insieme a Mine Battisti, Alessandro. Ha ragione, ecco perché stiamo facendo questo programma, perché nella musica commerciale, nei 45 giri insieme ai Cugini di Campagna e Claudio Baglioni, c'erano anche i Genesis, un periodo meraviglioso piaceva, della nostra musica. Moltissimo. Mi piaceva. Noi torniamo con voi nel 1976, subito dopo la viabilità. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Mix 24, musica e storia. Invece esplode un gruppo che avrebbe bisogno di una stazione televisiva tutta sua. Questi sono gli ABBA con Fernando, SOS e Dancing Queen. Alessandra, wow, bentornati nel 1976 su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori e con me c'è Franco Schifani. Ciao. Stiamo appunto raccontando il paese attraverso la storia e la musica, ma dal 28 settembre tornerà il classico mix con Giovanni Minoli, Pietrangelo Buttafuoco, Maria Osechi, le interviste, i faccia a faccia, i gialli della storia e molte altre novità. Ma intanto, Franco, gli ABBA, il 1976, che poi sono svedesi, scusa se non sbaglio, come l'IKEA. Come l'IKEA, come tante altre cose, come la mia terza moglie anche. Ah, vedi Franco, è il titolo di un film. La svedese. La terza moglie svedese. Non male. Vabbè Franco, ma intanto, la musica italiana in televisione, te la chiedo così. Guarda, in televisione ci sono sempre gli stessi programmi che promuovono la stessa musica, qualcosa in più, perché ormai insomma stiamo andando anche nella musica d'avanguardia, ci sono dei programmi specifici eccetera, ma la vera novità del 1976 sono le radio libere, cioè esplodono, perché dopo la sentenza della Corte Costituzionale appunto nascono le radio libere, la prima a Milano che conosciamo tutti, che è Radio Popolare ovviamente, e poi qui a Roma GBR Onda Rossa, immagino. E poi RR96 di Radio Repubblica, dove io ho avuto l'onore, il privilegio e il piacere di lavorare, cara Alessandra. Caro Franco, ma